Stagione certosa estate 2024, William Piana e Lorenzo Pauri per Radio Città Fugico in compagnia di Roberto Martorelli. Buongiorno e ben ritrovato Roberto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Cominciamo la nostra conversazione appunto dalle novità di questa estate 2024 in certosa, poi scopriremo non solo. Cosa ci puoi dire Roberto? Allora, la novità è che siamo già alla 16ª edizione, teniamo botta, come dire. Poi le novità rispetto agli anni precedenti è che quest'anno abbiamo ben due mostre, avvicinandoci al periodo di Ogni Santi, quindi a settembre-ottobre, sia la Fondazione Lercaro sia da noi al Museo Civico del Risorgimento in Piazza Carducci si terranno due diverse esposizioni dedicate alle opere della Certosa, che arricchiranno ovviamente tutta la rassegna estiva. Che diventa un museo a cielo aperto in altre sedi espositive. Si inizia ufficialmente o è già iniziato, perché ho parlato di estate, ma qua arriviamo ben oltre. Cominciamo venerdì 24 maggio, finiamo, l'estate la Certosa un po' ampia, finiamo il 2 novembre. Data di commemorazione, come ben sappiamo, dei defunti. Qui in questo caso troviamo, oltre che delle attinenze dal punto di vista emotivo, anche dal punto di vista artistico. E a tale proposito, per quanto riguarda l'apertura, troviamo invece nella giornata di venerdì. Allora, venerdì cominciamo con gli amici di Villa Ghigi, perché la rassegna, due anticipazioni della rassegna di Verdi in Verde si tengono con noi del Museo del Risorgimento, quindi ci sarà una conferenza a Palazzo d'Accursio, soprattutto una passeggiata al tramonto in Certosa venerdì pomeriggio, su prenotazione come tutte le attività. Cosa si aspetta da questa edizione? Mi aspetto gente giovane, diciamo, ultimamente la media del pubblico si è abbassata come età, ma mi aspetto gente ancora più giovane, tipo la tua età. E quindi hai già iniziato a fare una sotto buona reclama. Ecco. Certo, in questo caso hai azzeccato perfettamente un'idea di pubblico all'interno di questo museo a cielo aperto. Abbiamo parlato di arte, di esposizione, di passeggiati, di incontro, ma sappiamo bene che ha un'espressione eterogenea la Certosa per quanto riguarda incontri e rassegne. Di cosa avremo la possibilità di trovare, ecco. Ovviamente facciamo tutto questo per cercare di dare voce e senso a questo enorme luogo di 27 ettari, un quartiere della città, quindi oltre alle classiche visite guidate ci saranno però anche le visite animate, quindi saranno visite guidate ma accompagnati da artisti, quindi ci sarà anche musica, letture, attori che accompagneranno alla scoperta della Certosa, ma ci saranno anche veri e propri concerti e performance teatrali, tra cui ci sarà anche un concerto in cui il finale lo deciderà il pubblico insieme agli artisti. Grandi richiesta! Qualche nome che compone il programma dell'edizione 2024? Allora, insieme ormai ci accompagnano quasi dall'inizio, Alessandro Tampieri oppure all'associazione Mirarte con Ilaria e Michela. Quest'anno ci sono anche nuove realtà associative, perché noi facciamo un bando tutti gli anni, per cui ogni anno entrano nuove associazioni che contribuiscono a dare una visione un po' diversa rispetto alle altre, perché ovviamente facendo un po' per anni e anni lo stesso lavoro, più o meno ci si sente che si diventa un po' ripetitivi. E quindi l'arrivo di nuove associazioni ci dà sempre qualche cosa di nuovo, quindi aspettatevi qualche nuova cosa. Frequenza degli appuntamenti e possibilità di consultare il programma con tutti questi amenicoli digitali. Le prime due settimane è la settimana alla scoperta dei cimiteri europei, quindi c'è attività quasi tutti i giorni, e da giugno fino a novembre più o meno ci saranno due o tre serate, uno o due visite al pomeriggio e al tramonto. Tutto il programma è su museibologna.it/risorgimento. Abbiamo anche altre sedi, c'è un'estensione votiva quest'anno, andando in provincia. Sì, perché con la legge regionale del 2022 sui cimiteri storico monumentali è nata un gruppo di coordinamento dell'area metropolitana di Bologna, cimiteri bolognesi nel senso di provincia, hanno lavorato insieme per fare per la prima volta un programma durante la settimana dei cimiteri dell'area metropolitana di Bologna, quindi quattro cimiteri che propongono proposte diverse sul modello della Certosa, per intenderci, e speriamo che questo sia il primo seme di una crescita sempre più rigogliosa. Per il primo anno collaboriamo da sempre per Breakfast Club e Certosa Estate con Radio Città Fugico. Per il primo anno andrà, e la scelta per me azzeccata, nella rubrica In Mostra. E infatti hai aperto la conversazione con l'aspetto espositivo per questa edizione. Hai parlato quindi di opere d'arte, di trasferimenti all'interno di due sedi espositive. Puoi svelare qualcosa di più? Ah beh, possiamo svelare, perché tanto lo sveliamo con col programma. Una è una mostra di pittura dal Museo del Risorgimento, Lacrime di Pietra. È una pittrice che fa anche un corso, e quindi lei e i suoi allievi hanno riprodotto in maniera molto simile dal punto di vista esecutivo alcune statue della Certosa, quindi sarà una specie di parata molto omogenea dal punto di vista artistico delle sculture del cimitero, mentre alla Fondazione Lercaro ci sarà una mostra fotografica degli amici della Certosa dedicata agli affetti e all'espressione degli affetti nelle statue del cimitero. Grazie per questa presentazione e buona giornata. Grazie Roberto. Grazie a tutti e tutte.